Buongiorno e benvenuti a Un giorno alla volta, il devozionale quotidiano sulla parola di Dio curato dalla Chiesa Logos a Firenze. Questa è la riflessione di oggi. Questo è Genesi capitolo 11, versetto 9. Per questo quella città fu chiamata Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la faccia della terra. Con l'emergere di nuove tecnologie, specialmente dell'intelligenza artificiale, l'idea di un mondo senza barriere linguistiche diventa sempre più realistica. Immagina un mondo in cui non devi imparare altre lingue per comunicare, ma tutti possiamo capirci. Sembra ideale, vero? Ora immagina anche le cose che il cuore malvagio e peccaminoso dell'uomo potrebbe concepire. Se già di per sé vogliamo elevarci alla posizione di dei, non voglio neppure pensare a un'umanità unificata nello stesso pensiero. Questa è la storia della Torre di Babele. È un racconto che ci mostra come il desiderio umano di raggiungere la grandezza senza Dio porti alla confusione e alla dispersione. In questo versetto vediamo come Dio intervenga per fermare i piani arroganti dell'umanità, confondendo il loro linguaggio. Dio non solo interrompe la costruzione della torre, ma disperse anche le persone su tutta la terra. Perché fece questo? Perché l'orgoglio e l'autosufficienza dell'umanità li avevano portati a dimenticare la loro dipendenza da Dio. È una lezione potente sui pericoli dell'orgoglio e sull'importanza di riconoscere il nostro bisogno di Dio in tutti i nostri piani. Cerchiamo di comprendere meglio questo passo. Genesi 11:9 è il culmine della storia della Torre di Babele. Questo versetto spiega l'origine del nome Babele, che in ebraico è legato alla parola Balal, che significa confondere. L'umanità, che fino a quel momento aveva parlato una sola lingua, si unì in un progetto ambizioso: costruire una torre che arrivasse fino al cielo, sfidando l'autorità e il posto di Dio. Quella torre non era solo un monumento, rappresentava l'autosufficienza e il desiderio dell'umanità di controllare il proprio destino senza dipendere da Dio. Dio, confondendo il linguaggio, frustrò i loro piani e disperse le persone su tutta la terra. Questo, oltre che un castigo, fu un modo per proteggere l'umanità dal suo stesso orgoglio e autosufficienza. Dividendo il linguaggio, Dio ricordò loro che senza di Lui i loro sforzi più grandi sono destinati al fallimento. Questa storia segna anche un momento cruciale nella narrazione biblica, preparando la scena per la chiamata di Abramo, attraverso cui Dio avrebbe iniziato un nuovo piano per benedire tutte le nazioni. Senza Dio, i nostri piani più grandi, successi, possono diventare fonti di confusione e divisione. La storia di Babele è un promemoria che ogni piano che esclude Dio è destinato a fallire. In un mondo che valorizza tanto l'autosufficienza, questo passo ci sfida a riorientare le nostre vite verso una totale dipendenza da Dio. Ecco tre verità bibliche che possiamo estrarre da questo passo. Numero 1. Riconosci la tua dipendenza da Dio in tutti i tuoi piani. Stai costruendo torri nella tua vita confidando solo nelle tue forze e capacità? Questo versetto ci sfida a sottomettere tutti i nostri progetti e obiettivi a Dio, riconoscendo che senza di Lui i nostri sforzi sono vani. Numero 2. Evita l'orgoglio e l'autosufficienza. La storia di Babele è un avvertimento sui pericoli di confidare in noi stessi invece che in Dio. Rifletti sulle aree della tua vita in cui l'orgoglio potrebbe impedire di cercare la guida e l'aiuto di Dio. Numero 3. Ricorda la redenzione di Cristo. Sebbene Babele fosse un luogo di confusione e divisione, a Pentecoste Dio invertì quella dispersione quando lo Spirito Santo permise agli Apostoli di parlare in diverse lingue, unendo persone di tutte le nazioni in Cristo. È una potente immagine di come Dio, attraverso Gesù, porti unità e scopo dove prima c'era divisione. Preghiamo. Signore, aiutami a confidare in Te, in tutti i miei piani e in tutti i miei progetti. Liberami dall'orgoglio che mi porta a dipendere dalle mie sole forze e guidami sulla via dell'umiltà e della dipendenza dalla tua grazia. Fa che la mia vita rifletta la tua volontà e il tuo scopo. Amen. Oggi leggiamo Genesi capitolo 12, Matteo capitolo 11, Atti capitolo 11 e Neemia capitolo 1. Grazie per essere stati con noi. Un giorno alla volta è una produzione liberamente tradotta e adattata in italiano. Se desideri approfondire, ricevere ulteriori risorse o metterti in contatto con noi, cercaci online come Chiesa Evangelica Logos. A domani!